Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Magazine inizia subito dopo il GR di Radio Popolare per questo lunedì 20 maggio, in quanto avremo un last minute collegato ai magazine stessi, che vi permetterà di portare a casa il capolavoro di Bjorn Larsson, La vera storia del pirata Long John Silver, libro meraviglioso. In quanto giovedì 23 maggio alle 21 in Mediateca San Lazzaro ci sarà l'incontro con Bjorn Larsson, che parlerà dei libri, della sua vita e di come la lettura abbia influito sulle sue scelte personali. Grande scrittore svedese, un autore importante che ha saputo andare oltre, che sa andare oltre, grande comunicatore, traduttore, insomma uno dei personaggi per la letteratura contemporanea direi assolutamente più importanti. E per avere il capolavoro di Bjorn Larsson ho già dato un indizio. È un connazionale di Bjorn Larsson, il nostro protagonista. Nasce nel 1923. Secondo indizio, quindi, è un connazionale di Bjorn Larsson. Ma entriamo direttamente nella nostra rassegna stampa con curiosità, letteratura ed arte, che a volte anticipa i contenuti del Breakfast Club, a volte il Breakfast Club anticipa i contenuti dei magazine, in questo caso la meteorologia di questa stagione, non esattamente questa, un po' più avanti, quando vi è il cambio di stagione da un caldo torrido, chi l'ha mai visto, si può dire, per quanto riguarda il 2024, è stato più bello febbraio di maggio in generale. Comunque lasciamo perdere, anche se è un'argomentazione quanto mai importante e fondamentale. Ma per quello che volevo introdurre in apertura della nostra rassegna è questa fastidiosa entità che, quando vi è questo cambio, dal caldo un po' si rannuvola, sta per arrivare la pioggia, pizzicano, arrivano, ci infastidiscono, pizzicano. Sto parlando delle mosche, pensate un po'. E beh, la mosca nell'arte, uno dice, ma cosa stai dicendo, William? No, la mosca nell'arte ha avuto la sua importanza. Vi cito un episodio che racconta il Vasari, magari molti di voi conoscono questo episodio. Nel 1550 racconta il Vasari che un giovane giotto, per fare uno scherzo, un po' un burlone questo talento immenso, no? Per fare l'ennesimo scherzo a Cimabue, su un disegno di Cimabue decide di portare su questo ritratto una mosca. Cimabue rientra e inizia a scacciare la mosca, talmente è disegnata perfettamente. Pensate il talento di un giovane giotto che già riporta sul ritratto di un altro grande maestro il Cimabue, per scherzo disegna una mosca e lui prova a scacciarla, talmente è disegnata bene. E a proposito di arte, la mostra Musca Depicta è al Labirinto dell'Amazone, sede espositiva nel Parmense, bellissimo, fino al 30 giugno. La mostra è legata alla nuova edizione dell'omonimo volume, interamente dedicata al tema della presenza della mostra nell'arte. Beh, del resto è una presenza sì fastidiosa, iconograficamente. Non vorrei evocare, anzi ci mancherebbe tutt'altro, però Belzebù, il principe del male, definito il signore delle mosche. La mosca da sempre è stata identificata come portatrice di batteri, fastidiosa, animale che tormenta, insetto che tormenta, si posa con inveterata ostinazione. Si dice, no? Mi fai salire la mosca al naso quando viene il nervoso. Thank you. Per Plinio il Vecchio è un animale che si nutre dei cadaveri e soprattutto si posa sullo sterco, sicuro veicolo di malattie, tra cui la terribile peste. E come ho detto, per non parlare chiaramente dell'immagine con le tenebre, col principe del male, così definito Belzebù, no? E sono 67 le opere raccolte dove è protagonista in un modo o nell'altro questo fastidiosissimo insetto. Aggiungiamo anche un altro dipinto molto particolare. Sto parlando dell'artista Petrus Christus, discepolo di Jan van Eyck. Nel ritratto di Certosino, l'insetto, la mosca, è presente sulla cornice in basso. Allo stesso modo, subito si sono scatenate mille interpretazioni, eh? Allora, la più accreditata è un omaggio a Giotto, quindi ha voluto far vedere l'artista anche lui quant'è talentuoso, e nello stesso tempo però ha voluto mettersi alla prova con la difficoltà. Beh, dipingere, ritrarre questo animale non è semplicissimo, quindi ha voluto mettersi alla prova. Un'altra molto più, diciamo così, spirituale negativamente, che sia un monito, visto che ai piedi di questa figura, di questo ritratto sulla cornice, che non sia un monito per il deteriorarsi delle spoglie mortali, che sia come un monito a qualcosa che va via via decomponendosi, come del resto purtroppo. Veramente ve ne è di tutto e di più. E faccio una citazione cinematografica, riprendo anche con il cinema Cronenberg e La Mosca, uno dei film, sì, è veramente un film bellissimo, quanto inquietante se vogliamo, un grandissimo Jeff Goldblum, mi pare, l'attore che interpreta questo protagonista che va in intersezione con l'insetto diventando un ibrido terrificante. E in conclusione, a proposito di questa esposizione, che sarà fino al 30 giugno al Labirinto della Masone in quel di Parma, indubbiamente gli artisti nel corso del XV e del XVI secolo precedono per lo più verso una rappresentazione sempre più realistica del mondo, e insieme non possono fare a meno di esporre nelle opere il simbolo della sozzura, del peccato, della decomposizione, e non solo secondo i precetti cristiani, quello che ho citato in precedenza nel basso della cornice per l'opera di Peter Christus. Trovare questa mosca, come ho detto, qualcosa di negativo, qualcosa che riporta la caducità. Beh, di sicuro dipingere una mosca è più interessante e di soddisfazione che ritrarre una zanzara. Continuiamo quindi con questi fastidiosi insetti. Il suo posto, meno male, che nella pittura successiva sarà preso dalla farfalla. E qui viene citato un libro molto bello di Friedrich Schoelberg, L'arte di collezionare mosche dell'Iperborea. Nel suo libro riesce a rispondere alla domanda: ma perché la mosca? Beh, concludere così l'articolo è: l'unica cosa certa è che nei prossimi 200 milioni di anni le mosche ci saranno ancora sul pianeta, ma noi umani non è affatto certo. We'll be right back. letteratura iperborea in occasione del 23 maggio, l'arrivo a Bologna di Bjørn Larsson, la rassegna di cui vi ho parlato in precedenza e di cui ho già dato anticipazione a suo tempo, sarà per giovedì 23 maggio alle 21 in Mediateca a San Lazzaro. Per quanto riguarda il lavoro di Bjørn Larsson, che ha così portato in maniera totale il talento con iperborea, la vera storia del pirata Long John Silver per voi e l'autore che vorrei portare a voi per quanto riguarda la possibilità di arricchire la biblioteca di ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1 con due indizi. Allora, è svedese, è nato nel 1923 ed era anarchico. Aveva una situazione familiare difficilissima, eh? Abbraccia immediatamente la lotta anarchica ed è per molti versi un emblema della letteratura quarantista, capitanata dai celebri Carl Vanberg, altro grande autore, ed Erik Lindegren. Il suo primo romanzo, che ho avuto la fortuna di leggere grazie alle pubblicazioni Iperborea, capolavoro assoluto, sarà il prossimo indizio, è quello un po' più, diciamo così, che vi avvicinerà a questo autore svedese che scompare giovanissimo. Beh, dopo le mosche, in maniera negativa, se vogliamo, intesa sia concretamente che spiritualmente, come abbiamo letto, ma con tante caratteristiche che portano un motivo di analisi un po' più approfondito, ma nell'immediato fastidiose. Passiamo a un'altra rassegna che anticiperà la pubblicità, ricordo, per un buongiorno o per rispondere ai quiz che ho appena proposto per avere la vera storia del pirata Long John Silver di Bjørn Larsson, edizioni Iperborea, 333-180-9494. Allora, il mito dell'uomo onnivoro, siamo ciò che mangiamo? È il tema del centro Dialoghi di Pistoia in programma dal 24 al 26 maggio, un'occasione per ragionare sul nostro rapporto con il cibo, meno scontato di quanto si pensi. Perché i tabù alimentari sono parte integrante di un po' tutte le tradizioni? Adriano Favole in questo articolo riporta in giro per il mondo alcuni aspetti che vanno oltre all'immediato «ah no, non mi piace», «ah no, che schifo», «ah no». Perché? Perché tutto ciò? Per quale motivo? Motivo di abitudine, palato, tradizione, storicità. Porta l'esempio, ovviamente, ad esempio il solito maiale, no? Questo animale richiede grandi quantità d'acqua, non solo per bere ma per raffreddarsi. I contadini tradizionali della pianura padana avevano spesso delle pozze d'acqua in cui i maiali sguazzavano in piena estate. I maiali infatti sudano pochissimo, quindi quando dite a qualcuno sei sudato come un maiale, no, è sbagliatissimo, siete fuori strada completamente. E quando in numerose aree del Medio Oriente il clima divenne più secco, l'allevamento del maiale risultò piuttosto sconveniente. E il maiale era un pericoloso concorrente alimentare. Piano piano scivolò tra gli animali abominevoli. E le mucche allora, in India, perché popolazioni sull'orlo della fame non si cibavano delle loro carni? Perché, sosteneva Harris, la mucca è meglio da viva che da morta. I bovini erano ottimi animali da trazione, da trasporto. I loro escrementi fornivano materiale combustibile e da costruzione. E gli insetti? i vermi e i serpenti, perché non li mangiamo? Per Harris è una questione di economia e di tempo. Sicuramente le formiche del miele sono un ottimo alimento, infatti i nativi australiani se ne cibavano. Ma quanto tempo ci vuole per raccoglierne a sufficienza per un pasto? Giappone, beh, al contrario, mangiano ultimamente, si mangia anche dalle nostre parti, poi la qualità certamente non ne faccio approfondimento perché lo evito assolutamente. Il sushi, perché rappresentiamo il Giappone come una società affascinante? I cristiani cominciarono a cibarsi di maiale, forse anche perché gli ebrei non lo facevano. Non mangiamo gli insetti perché nel nostro immaginario sono il cibo di popolazioni nere, primitive e diverse da noi. Al contrario, mangiamo ultimamente molto sushi perché ci rappresenta il Giappone come una società assolutamente affascinante. Anche questo è vero. That's what makes bizarre, the motion be slicker. I saw we move, I saw we go. In Estremo Oriente, tra l'altro, hanno, sapete, nella loro cucina come insetti e cose che per noi risultano, anche per me assolutamente, cioè non ci penso minimamente, sgradevoli a dir poco. Per loro i nostri formaggi dicono: ma come fate a mangiare del latte deteriorato, andato a male? È una cosa che puzza, che fa schifo. Ecco, pensate un po' come cambiano le cose. Vuoi mettere con una bella frittura di cavallette e ragni? Watch them viral cats, them. They're a dictator friend. They must be, but they just don't see that. Friction in me, it be the dislocation in this limb that could be mighty moving tight. I guess I'm a romantic. My plan is to defy the nature of an eye that's bent on me and Mars. Steady flexing with some next type of motion. I'm steady flexing with some next type of motion. Steady flexing with some next type of. Quindi la mostra con la quale siamo partiti al labirinto dell'Amazzone a Fontanellato, tra l'altro Fontanellato, uno dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, ha questo periscopio, questo specchio al suo interno per vedere tutta la piazza, che è assolutamente molto affascinante. Quindi al labirinto dell'Amazzone, l'esposizione Natura in mostra Musca Depicta con relativo catalogo che indaga sulla presenza in quadri di insetto che è fastidioso ma che è quanto mai particolare, difficile da ritrarre. Poi a Pistoia, dialoghi di Pistoia, in programma dal 24 al 26 maggio. Siamo ciò che mangiamo, il tema è al centro di questa rassegna che vi ho appena citato. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo con i nostri magazine. Siamo partiti con la domenica del Sole 24 Ore e la lettura del Corriere della Sera. Do un altro indizio: questo autore è morto a 31 anni suicida. È il protagonista di oggi come personaggio misterioso, il protagonista per quanto riguarda la rassegna di cui vi ho dato anticipazione è l'autore, lo scrittore Bjørn Larsson per giovedì 23 maggio. Intanto a tra poco un po' di musica, pubblicità, poi si torna in diretta. Well, where I open up and prepare to be schooled. Yes, trekking so through the cesspit, I sharps up my wit. Numb into the pressure of an ego trip. I make slick with mad energy at mad magnitude. Moves for my wit's sakes, I guess to be clued. What holds me so closely to deep sides of mine and preoccupation with the root tick we find. I know not, but gee gosh, it eats out my skin. The nature of a deep side that lies deep within. Ever resourcing to inspire. Seeming like rain to a wild bushfire. Root tick refined as the spine of my joint. The hardness has got to catch cuff to the groin. Steady flexing with some next type of motion. I'm steady flexing with some next type of motion. Oh, you mean? Steady flexing with some next type of motion. Oh, is that? I'm steady flexing with some next type of motion. Yeah. Nuovo in diretta 8 e 12 minuti, ho spostato un pochettino l'ordine delle pubblicità perché avremo probabilmente una sorpresa verso le 8.30, 8.35, quindi restate in frequenza sui 103.1. Ribadisco 333-180-9494, lo scrittore misterioso. Nasce nel 1923, svedese, ha una famiglia che purtroppo lo metterà in difficoltà, una situazione familiare da subito molto difficile. Aderisce ai movimenti anarchici e lo fa con grande passione e grande entusiasmo. Cade però anche, come capita spesso alle personalità più sensibili, in diversi casi di depressione. È ritenuto uno dei maggiori scrittori svedesi. Allora vi dico qual è il suo primo lavoro, che ha portato chiaramente in Italia Iperborea, ed è un libro che obbligo alla lettura, non consiglio come spesso dico. Il Serpente è il suo primo romanzo. Di chi si tratta? Ormai vi ho detto tutto, Muore suicida a 31 anni ed è un autore, come vi ho già detto, scandinavo-svedese, situazione difficile, abbraccia i movimenti anarchici, cade in depressione più volte fino a quella a 31 anni, risulta fatale. Il suo primo lavoro, aggiungo capolavoro, è Il Serpente, portato in Italia da Iperborea. Di chi si tratta? La risposta al 333-180-9494 per avere la vera storia del pirata Long John Silver, libro meraviglioso di Björn Larsson, a proposito di Svezia, che sarà in Italia il 23 maggio per la rassegna Lectura Mundi, festival letterario organizzato da Scriptabo. Sarà in Italia, sarà per la precisione a San Lazzaro, la mediateca di San Lazzaro. Il libro ve lo consegno io, ci mettiamo d'accordo, può essere alla UBIC, come più vi aggrada, per quanto riguarda la consegna del premio, per cui aspetto le vostre risposte. David Sanborn al contralto, Enjoy the View, questo disco che vedi Bobby Hutcherson al vibrato, un disco bellissimo. Sai Paolo, mi dispiace, non è. Abbiamo iniziato con gli insetti, abbiamo iniziato con un'esposizione al labirinto dell'Amazzone dedicato alle mosche, e dopodiché siamo passati invece a queste nuove trasformazioni e approcci con il cibo. Non sto a parlare della nostra tradizione perché ovviamente vi ho già ammorbato più volte con il mio pensiero. Purtroppo la stiamo perdendo, ecco, quello sì. Magari avremo modo, già è capitato, di farne diversi approfondimenti, e sapete bene come la penso su tutto ciò. Joy De Francesco all'organo Hammond, che poi parleremo anche di Moog. E bravo Paolo che dà risposta esatta dopo un tentativo fallito. È Stig Dagerman con il libro Il Serpente, il suo primo romanzo, riportato anche la stagione scorsa al Voltiamo Pagina. Tuo è di Björn Larsson, la vera storia del pirata Long John Silver, sempre di Iperbore. Libro meraviglioso. Complimenti Paolo, bravo. Piuttosto allora vi parlo da Robinson, stiamo cambiando magazine così velocemente, se vogliamo, diamo un'alternanza di contenuti. Beh, continuiamo però a parlare in questo caso di letteratura, classici di letteratura con personaggi a fumetti, continuo a chiamarli fumetti perché non mi piace tanto il termine graphic novel, come ben sapete, e da Repubblica strano che Robinson apra con protagonista Paolino Paperino, da noi così chiamato, nome originale Donald Duck, l'unico Donald che noi votiamo, apre così Robinson di Repubblica. Paperino, a proposito di ricorrenze, compie 90 anni. Lo festeggiamo perché abbiamo gli stessi difetti. Può essere, fin da subito, questo pennuto vestito da marinaio che prediligerà l'amaca per 90 anni è diventato un idolo alla pari di Topolino. Io preferisco, preferite Paperino o Topolino? Io Paperino tutta la vita. Topolino è un po' snob, è un po' altezzoso, è un po' saputello, ecco. È un paradigma letterario, l'arguzia e l'onestà morale di Mickey Mouse ci servono, la sfortuna e l'irascibilità di Donald ci piacciono. Il primo è meglio di noi, l'altro è peggio. Beh, non esageriamo, o almeno così speriamo da sempre. Qui le immagini, insomma, di un Paolino Paperino arrabbiato. Nessuno dei personaggi del suo mondo può fare antipatia, nemmeno lo zio miliardario e avaro. Infatti è un genio, Walt Disney, e chi ha portato la scrittura di questi paperi, e nemmeno il cugino Gastone, sfacciatamente fortunato, che fa sbattere così per flirtare gli occhi a Daisy Duck, cioè a Paperina. È un long format dedicato a Paperino, anche nella sua trasformazione in Paperinic, da personaggio secondario a eroe protagonista. Fenomenologia di Donald Duck spiegato da Roberto Santillo, direttore creativo Disney. Comunque veramente geniale riuscire a riportare in maniera affascinante questi personaggi, che se ci pensate sono anche molto molto conservatori. Non c'è, l'abbiamo detto più volte, una discendenza diretta, sono tutti cugini, nipoti e zii. Questa già è un aspetto un po' particolare. E poi, come ha detto nell'articolo in apertura Robinson, l'avarizia di zio Paperone, la fortuna sfacciata di Gastone, eppure non riescono ad essere antipatici. Ecco, Topolino invece, così saputello, pochettino, non risulta poi così simpatico, del resto non possiamo essere simpatici a tutti. You l'altro il vincitore del quiz è un altro Paolino, non Paolino Paperino, ma è Paolo Terenzio, Paolino Terenzio, che ringrazio e saluto. Allora, dai 90 anni il filo conduttore di Rassegna Stampa Culturale è questo, i 90 anni, 90 anni di Donald Duck, ma anche i 90 anni con le onde anomale del signor Moog. Siamo a pagina 14 di Alias, edizioni del Sabato del Manifesto. 90 anni fa nasceva l'ingegnere statunitense inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. Fra l'altro, dice lui stesso, sono diventato un progettista di strumenti elettronici per via della mia passione per il theremin, che è uno strumento affascinante, è il primo strumento di tutti i tempi, il theremin, che per essere suonato non viene toccato con mano, o non viene toccato, non viene soffiato, non va aria per farlo suonare, per mettere musica, no, assolutamente, viene interrotta l'induzione tra due poli, causando in questa micro caduta di potenziale delle sonorità. Da qui tutto un lavoro di frequenze ha dato la possibilità al signor Moog, Robert Arthur Moog, di inventare questa modulazione di frequenza che appunto prende il nome dall'ingegnere stesso. Allora, poco prima della pubblicità, però, io vi dico che l'interprete per le sonorità Moog alla fine degli anni 60, inizio anni 70, a cui ho portato il suo disco, appunto Moog Indigo, è Jean-Jacques Perry. Il suo brano Eva ne è una dimostrazione assolutamente accattivante. Ve lo faccio ascoltare, pubblicità, poi si ritorna in diretta sui 103.1 con i Magazine.